dunque dicevo, a dare una mano sempre, sempre, perché quello risiede nello spirito AM, dei veri AM, sempre pronti e disponibili. A farlo in questi giorni no, perché stamane, sto dicendo anzi stasera, sto dicendo a Claudio, ho commesso un errore fatale di voler. Ho tentato di riprogrammare il motore per avere una chiusura un po' più veloce, mi sono inchinato e come mi sono inchinato sono rimasto inchinato, in parole povere. Quindi adesso sto a malapena sulla sedia, guarda, stando attento a non muovermi troppo, perché mi è preso questo dolore che non ti dico, guarda. Anche questa ci vuole, tutti i natali sono così, per me. Ho strampo, ho omicidio, qualche accidente, è una cosa che non si crede. Io ho paura di Natale e di Pasqua, sembravo proprio preso di mira dalla sfiga. Comunque, vabbè, pazienza, che te devo dire, è così, speriamo che passi anche questo. Riprendi il collega Vecchietto. Buon ragazzo, vabbè. No, io Roberto non ho problemi, non lo tutto, no, come lui fa con me, quindi. Se poi fa male la schiena, come ho fatto oggi, una bustina e via. Intanto è così, io è anni, anche lavoro, me la portavo appresso la bustina dell'occhi, adesso prendo un Nimerex che me l'ha dato proprio l'ortopedico, è molto efficace, prendo una bustina al giorno e posso fare tutto quello che voglio, certo, senza fare molti tratti, però molti pesi, però posso muovermi tranquillamente, senza quella gioco un cadavere. Infatti stamattina mi ho rasato tutta l'erba, mi ho finito tutte le cose che c'erano da fare, adesso può fare il tempo che vuole. Fuori esternamente è tutto fatto, ci sono delle cazzatine ma no, non influiscono con l'acqua, capito? E dopo pranzo mi sono riposato, ho preso una bustina, adesso sono al top, quindi quando vuole Roberto se andiamo qualcosa, con l'aiuto di Marco, ma mi ha detto Marco come fare, quindi gli ho agganciato anche gli 80 metri, però con gli occhiali mi pare uno si sia rotto, ho già visto, quindi ci vogliono gli occhiali nuovi. E poi ci piazza anche quello lì, vediamo come fare, sempre con l'aiuto di chi ha più esperienza di me sicuramente. Ma Marco Scorpio, adesso che ha trovato il pandoro sul tavolo, si è fermato a mangiare. Marco! Claudio, ripetimi il nome, come si chiama quella medicina? Nimedex, molto meglio dell'occhi, del nemisuride, dell'aule, vabbè non lo fanno più, questo è efficace, già fa una cosa micidiale, una data dottor Medici all'Alghero, poi l'ha detto al mio medico, ha detto no, così, ma prendila subito che quella è la migliore in assoluto, soprattutto per le infiammazioni alle ossa. Perché non sto guardando, è il solito antinfiammatorio, non so il video, però bisogna starci attenti da quello che leggo. No, vabbè, fortissimo, non è che ne puoi prendere, io prendo anche il gatto protettore, capito, perché è molto forte, però se c'è un'infiammazione, c'hai qualcosa alla schiena, così come noi, capito, le tinchini, poi non ti alzi più, quello è favoloso, io senza quello sono morto, sono bustini, mi pare ce ne siamo 20, ogni mese ne consumo una, una scatola al mese. Vai Roberto. E bisogna stare attenti però, queste cose qua, come lucchi, senza prolungare, solo in caso di necessità è importante, se è un dolore insopportabile cercate di evitarlo, perché non è tanto consigliabile. Passate 450 che parliamo in un'altra cosa. Sì, capo, stiamo arrivando. E io vi ascolto, sono qua. Sì, sono qua anche. Allora, canale 20 monitor, dai. Sì, ci sono sempre qua. Qua, lì e là. E in tutti i luoghi. E in tutti i mari, come la canzone di quell'orecchione della Maddalena. Io domani volevo spedire il pacco, ma Marco Scorpio ancora mi ha dato l'indirizzo, mandamelo su WhatsApp che me lo scrivo io. E me lo ricevi il satellite? Ho a sintonizzare, c'è 95, 860, però dice arriva fino a 880. E tu devi spaziare da 860 a 880, e vedi, hai sentito cosa ti ha detto Marco, Roberto? Aspetta, sto sintonizzando, non ho sentito, cosa ha detto? Ogni do... Aspetta, cacchio, questo è ancora in FM, le U, sto guardando le... Ho sentito qualcosa per un attimo, però era in FM qua. USB, VHF. L'ho messo, USB, stavo provando... Io sento un fischietto. VHF, USB. Sento qualcosa a 145 e 841 e lo vedo anche, ma sembra un qualcosa di... A Marco l'ho sentito, un po' distorto, però l'ho sentito, a 435, 225. 863.99, 864.24, USB. Ma tu sono 435, 225 sono io. 864.24, guarda, hai sentito? Hai sentito già che ha detto Marco, Roberto? Aspetta, non ho commutato, Claudio, non riesco a commutare la USB nelle U. USB-IV, sai che ti do l'820H che è più facile, il 2000 me lo prendo io, cazzo. 866, sempre VHF, sta passando adesso il satellite, vai. 866, VHF, USB. Ehi, ma non riesco a capire perché non sta commutando l'USB, rimane solo AM/FM nel sub ricevitore, no? Non entra l'USB. Non dire sub, cazzo, vai diretto, no? Il segnale è forte qua, lo ricevo forte, però cazzo, devo entrare in qualche funzione, aspetta un po'. Ma se sta trasmettendo Marco? Lo sento che sta parlando, però non riesco a capire quello che dice perché sono una M, non riesco a commutare nell'SB questa radio per il sub-ricevitore. USB. USB sono le V e l'SB sono le U. Infatti in V devi andare tu, cazzo, in V, USB in V. E V non lo sento, non sento niente. Lo sento solo nelle U, però non riesco a commutare il ricevitore, cazzo. Che cazzo? Ah, guarda che il sub credo che vada solo in FM, se non ricordo male. Ma in FM e in AM, per cui allora devo farlo con l'altro, invertendo le cose. Aspetta un attimino. Cianfra, le do l'820H al 2000, me lo prendo io, dai. Vabbè, a questo punto. Non è più facile. No, il sub ricevitore non ci va in USB, deve andare col coso. Invece l'820H ci va, hai visto? Deve avere un altro ricevitore, inutile. Quindi col sub lì non va in, va solo FM e AM. Quando sono nelle V devo usare l'altro ricevitore. Con due ricevitori, con due appariti lo devo fare, perché il sub ricevitore va solo AM e FM e V. No, l'820H va sia da una parte che dall'altra. La I come così. Non capisco la luce, come mai? Aspetta, scusatemi un attimo, devo allontanarmi, ha chiamato mia figlia. E via. Sta facendo Marco, sta parlando. Sì, era 866, punto, non mi ricordo. È 864. Che è una bella cosa, ci attendete. Hai visto come facciano il fischietto? Io sono soppiamo i fischietti, però qualcosa deve essere anche in digitale. Beh, certo che sì. Ah, a meno che non sia PSK, ecco. Forse sia PSK. Oh, c'è il cambio. Beh, è il coso tipico del PSK. Dov'è Marco? Ah, in UHF, perché l'ho un attimino sganciato perché ho portato l'altro apparato. Aspetta che cerco la frequenza nuova. Sono a 450, se, vabbè, lui disturba qua. Ma non riuscivo a cambiare. Ah. È andata così, fuori tempo. No, io ti volevo dire, ma stanno trasmettendo anche in PSK. O comunque ce n'è più di uno di satellite in mezzo ai piedi, perché io ho vari segnali. Ripetimi la frequenza. Ok, io sto guardando, sì, sono 435-925, sempre USB, vediamo un po'. Volete un DMR tu, ci vai in UHF, sì, volevo fare una prova. Quello è il campo mio, no, sono cose serie. Non so, sono troppo complicate per certi pezzi. No, ma vuole bene. Un attimino che mi stanno chiamando al telefono. No, vabbè, io ho sia le V che le U in sistema digitale. ce l'avevi anche tu, così facevamo una prova. Vabbè, non problema, noi siamo lì a 433-450 in DMR. Va bene, è passato questo satellite, perché è passato sopra casa di Roberto, non è riuscito a agganciarlo. Ha detto ci ha inceppato con la radio, non cambiava. Sono qua, sono anche qua, vedi, vedi? Cos'è lui che ti dica? Si è rimasto anche là lì, non riusciva a muoversi più. Mi manca, fanno solo loro. Non vuol dire che un ponte radio anche qua, no? Anche a me arriva fortissimo. Io sono già a 435-925.00. Sono rientrato, ci siete ancora? Sì, ci siamo. Sì, ma di lì devo accendere un altro apparato, l'antenna è occupata. Quindi ti stanno chiamando. Un attimino che c'ho una roba in mano. Ha detto un attimino che c'ho una roba in mano. Infatti mi sta avendo la time. Sì, dai. Senta. Sì. Ok. 945, 915, facciolo. Sì. 915. Ci sono già. Certo che ci sono. Allora. Aspetta, ti faccio ascoltare un rumore, dimmi se è questo. No, perché sto ascoltando un segnale a 917. Sì, siamo capiti. Come mi sento io? Marco, allora, io ti ho ricevuto poco fa e arrivavi molto forte, tra l'altro. In U non riuscivo a sentirti, in V non ti ho sentito. In U ti ho sentito, però non potevo comutare. Io mi fermo. Scusa Marco, ma io non avevo capito che tu ti dovevo sentire in U. Io pensavo che ti dovessi sentire, cioè il contrario, che ti dovessi sentire in U, non in V. Sono sempre in Unifor Sierra Bravo, Robert, ricordatelo. Sì, l'ho registrato. Ma che si fa, Robè, per vedere se la tenete formata, se ricevi le stesse cose che riceve Marco. Ok, così mi dice l'antenna è performante, c'è tutto a posto, Robè. Io lo stavo cercando al contrario, adesso me l'ha detto, io non lo sapevo, pensavo fosse il contrario, da un link da una parte e da un link dall'altra. No. Allora facciamo un attimino incidente, così riesco a capire anche il segnale basso. Quella in U, quella di secondaria, terziaria, cos'è? 433-525. Ah, ok, è l'unica che non ho memorizzato. Memorizzata, Gianfranco. No, ancora che sono un po' incasinato qua. Stanno anche chiamando. Guarda Verena, prova. Se segue a Marco. Dite, com'è il satellite? Ho sentito qualcosa. Lo senti, Robè? Io ho sentito qualcosa. 9.30 però. Adesso è 9.29. Adesso è 9.29, guarda. Sì. Io purtroppo ce l'ho un FM. Vai Robè. Sì. Mi ha mandato tu? Io. Sì, arriva. Sento che abbia sparato. Sì, c'ho un FM io. Io ho sentito la tipa che ti ha chiamato, Marco, ma a te solo per un breve tratto. Ma che frequenza lo stai ascoltando? 29 o 30, Gianfranco? 9.34 era prima. Aspetta, provo a salire un po'. 956.7. Mangia. Mangio? No, io vado a mangiare, c'ho fame. Marco, ne uno potentissimo. Cosa? Robè, alla luna sei andato col satellite, dove sei? Scusate, il telefono un attimo. Allora, sono rientrato, scusate, dal telefono mi hanno chiamato. Comunque io sentivo solo a 929 e a 930. Uno ha fatto un passaggio, non ho capito il nominativo, QR, non ho capito cos'è. Vabbè, è buono, vuol dire l'antenna è performante, Robè. Il resto sentivo un sacco di rumore di fondo, qualcosina parlando, però non capivo bene. Per un attimo si Robby, a dopo. Marco, io ho sentito quello che ha dato nominativo, non sono riuscito a registrarlo perché sentito. Allora c'era, io ho sentito a 429 e a 430, stavo sempre spostandomi, girando, c'erano i segnalini massissimi, non riuscivo a capire niente. Quello che si è sentito chiaro, ho sentito solo QRV, qualcosa del genere. Mi hai sentito, Marco? Passa in V. A 525 o 425? Passa in VHF e 4. Non sono in VHF, non mi rispondete. Noi passa dove ti pare, guarda, no, a 525, 433, 525 oppure a 145, 450, scegli tra tu. Ho chiamato a 525 la risposta, adesso vediamo a 450.